La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole è dedicato al sindacalista della CGIL Placido Rizzotto, scomparso a Corleone il 10 marzo del 1948, ucciso dagli uomini del boss Luciano Liggio per la sua attività di contrasto alla mafia. Il suo corpo non è mai stato ritrovato. Ospite ai nostri microfoni lo storico Giuseppe Casarrubea. Ma adesso la parola va a Dino Pesole. È il 10 marzo del 1948 quando il 34enne sindacalista della CGIL Placido Rizzotto scompare nel nulla a Corleone, ucciso dagli uomini del boss Luciano Liggio per la sua attività di contrasto alla mafia. Solo dopo 64 anni si è giunti, pare, al ritrovamento dei resti del sindacalista. Stando a quanto hanno comunicato gli inquirenti, i resti trovati nel 2009 in una foiba di 50 metri a Rocca Busambra, nelle campagne di Corleone, appartengono proprio a Rizzotto. Si è giunti a questa conclusione dopo una complessa comparazione del profilo genetico rinvenuto sui resti del cadavere con un congiunto del sindacalista. Nicolò Polizzi, responsabile del laboratorio indagini biologiche della Polizia Scientifica di Palermo, ha confermato che il giovane sindacalista venne ucciso dalla mafia insieme al suo mulo. Entrambi furono gettati nella foiba a 50 metri di profondità. Il primo ad indagare sulla scomparsa di Rizzotto fu l'allora capitano dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa. L'uccisione di Placido Rizzotto matura in un contesto storico e politico segnato dalle lotte contadine contro il feudo e dalla violenta reazione del blocco agrario e mafioso. Nell'immediato dopoguerra, nel pieno delle rivendicazioni per la riforma agraria che verrà approvata solo nel 1950 con i decreti Gullo, vengono uccisi in Sicilia numerosi capi lega e sindacalisti. Anche Rizzotto, socialista, tornato dalla guerra partigiana nella Carnia, aveva organizzato i contadini e i braccianti ed era diventato segretario della Camera del Lavoro. Aveva promosso anche la cooperativa agricola Bernardino Verro per ottenere l'assegnazione delle terre incolte. Entrò subito in contrasto con la cosca mafiosa guidata dal medico Michele Navarra, poi ucciso nel 1958 dagli uomini di Luciano Liggio. Il 10 marzo 1948 venne sequestrato e ucciso sotto gli occhi di un pastorello di 12 anni, Giuseppe Letizia, che fece i nomi di Luciano Liggio e del suo amico Pasquale Criscione, prima di essere ricoverato in ospedale in preda a un delirio febbrile. Questa, almeno, era la diagnosi dei medici. Subito dopo il ragazzo morì per una tossicosi provocata dai farmaci. In realtà, con ogni probabilità, fu avvelenato nell'ospedale di cui era primario il dottor Navarra. Le indagini sul sequestro del sindacalista registrano una svolta quando a Corleone arriva il giovane ufficiale dei carabinieri, lo abbiamo ricordato prima, Carlo Alberto Dalla Chiesa, che nel 1949 arresta Pasquale Criscione e Vincenzo Collura, Liggio e latitante. I due indiziati confessano la partecipazione all'omicidio di Rizzotto e accusano Liggio di esserne l'autore. Da alcuni oggetti i familiari riconoscono quelli di Rizzotto, ma la certezza che fossero proprio quelli del sindacalista della CGIL non c'è mai stata. I due arrestati intanto ritrattarono le confessioni e furono assolti con Liggio per insufficienza di prove, sentenza confermata in appello dalla Cassazione del 1961. Tutto ciò fino a qualche anno fa. Dopo un lungo silenzio, nel 2000, il film Placido Rizzotto di Pasquale Scimeca ha riaperto l'interesse e le ricerche sulla fine del sindacalista. Io vi guardo negli occhi, compagni, e vi dico che se vogliamo costruirci un futuro, ce lo dobbiamo costruire con le nostre mani. Perciò questo nemico contro di cui dobbiamo lottare non sono loro i padroni! Ma siamo noi stessi, con le nostre paure che ammazzano la speranza, con i nostri piccoli interessi, con i nostri egoismi. È questo che dobbiamo capire, compagni. Non si nasce schiavi o padroni. Se uno ci vuole diventare, ci diventa. Perciò io ho il coraggio che vi chiedo, compagni. Questa terra che ci ha cresciuto può essere la nostra libertà, il nostro futuro, la nostra speranza. Noi dobbiamo restare uniti, compagni. perché da soli non si cambiano le cose. Le indagini, dunque, lo dicevamo poc'anzi, hanno condotto alla conclusione che i resti rinvenuti sono riconducibili al 75% al corpo di Rizzotto. Non vi è ancora dunque la certezza assoluta? Lo chiediamo a uno dei maggiori storici della Sicilia e della mafia, Giuseppe Casarrubea. Buonasera e bentornato. Buonasera. Allora, lei ha espresso, se non ho capito male, qualche dubbio di recente sul fatto che effettivamente questi resti possono essere effettivamente ricondotti a Rizzotto, ma allora la certezza non c'è? Beh, c'è la grande probabilità che siano in effetti i resti del sindacalista, però la certezza matematica non l'abbiamo, in quanto, come lei sa, nelle piccole comunità i rapporti di parentela, spesso molto stretta, sono tali e tanti, per cui reperire dei resti di cadaveri e confrontarli poi con tramite l'esame del DNA con i familiari viventi o defunti comporta sempre un certo margine di rischio. Ecco, ora parliamo della figura di Rizzotto, una figura di grande rilievo in quegli anni. La sua tragica fine ci riporta a un periodo di grandissimi conflitti che videro la Sicilia e la mafia protagonisti in quegli anni. Allora, in quale contesto, professore, si colloca l'omicidio di Rizzotto? Ma vede, l'omicidio di Rizzotto si colloca alla vigilia delle elezioni politiche del 1948, quando stravince la Democrazia Cristiana. Quella del 18 aprile, sì. Quindi avvengono tre gravi delitti, tutti di socialisti. Uno è appunto, come dicevate voi, Placido Rizzotto. L'altro è Calogero Cangelosi, un altro grande dirigente sindacale di Camporreale, che viene proprio falcidiato dai colpi di mitra di Vanni Sacco. E l'altro è Epifanio Lipuma, che faceva attività di sindacalista nelle petrolie, sempre qui in Sicilia. Quindi sono tre dirigenti socialisti che a distanza di breve tempo l'uno dall'altro vengono eliminati. Cosa significa da parte, diciamo, della mafia l'eliminazione di questa componente sindacale? Significa che si voleva colpire quella parte che non aveva aderito alla scissione di Palazzo Barberini e quindi alla socialdemocrazia saragattiana e che era saldamente collegata col movimento contadino di orientamento comunista nelle campagne e nei feudi e quindi faceva blocco unitario. Difatti le elezioni politiche del 48 vedranno in prima fila quelli che erano i partiti del blocco del popolo, cioè uniti in un programma e in un'azione di lotta comune. Abbiamo detto, professore, Rizzotto, Cangelosi, Lipuma, tutte figure che in qualche modo portano in quel contesto storico della Sicilia dell'immediato dopoguerra poi a quello che sarebbe avvenuto con la strage di Portella della Ginestra anche. Quindi sono tutti eventi collegati. Si tratta nell'insieme di delitti fortemente caratterizzati a sinistra. Quando la componente socialista, dal punto di vista dell'azione sindacale, esprime direttamente la sua opinione, apertamente la sua opinione per essere collegata con il movimento contadino di riforma agraria risalente al 44, ecco, a quel punto la mafia si infastidisce e dà le sue prove di forza, in ciò collegandosi con tutte le componenti reazionarie feudali, ad esempio i baroni decaduti e i vari cappellotti che nella Sicilia di quel tempo dominavano il territorio. Sì. Il, la mafia si inserisce in questo contesto attraverso il sistema delle gabelle, mediando tra lavoro e proprietà, e quindi esercita un potere di controllo totale, assoluto, anche rispetto al movimento contadino, che cerca di reprimere con un'azione sanguinaria di forza. Ecco, un'ultima cosa, professore, ma per l'omicidio di Rizzotto non ha pagato nessuno? Ma questo è un altro capitolo purtroppo vergognoso, perché devo dire che nessuno di questi sindacalisti assassinati dalla mafia tra il 1944 e il 1960, il delitto Buongiorno, eccetera, nessuno, compreso il delitto di Salvatore Carnevale, nessuno ha mai pagato. Addirittura ci sono casi come quello di Cangelosi che ho citato e quello di Accursio Miraglia, per i quali non sono stati aperti neanche i processi, cioè non si sono aperti i fascicoli per il dibattimento processuale. Sì. Ora, lo Stato, se veramente vuole rendere, diciamo, giustizia ai sindacalisti caduti e non vuole fare della retorica a proposito di Rizzotto, deve cominciare a pensare che quei processi andrebbero fatti, esattamente come sono stati fatti i processi contro i nazisti autori di stragi nel 1943. Certo. Grazie professore, grazie molte. Grazie a voi. Buona serata. Buona serata.